Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Picchiato a morte da due ultras per aver difeso la moglie da insulti razzisti. È quanto accaduto ad un nigeriano di 36 anni a Fermo, nelle Marche. Emmanuel, dopo essere caduto martedì in coma irreversibile, non ce l'ha fatta. Ieri è morto. Richiedente asilo assieme alla compagna, da 8 mesi era ospite del seminario arcivescovile di Fermo nel progetto gestito dalla Fondazione Caritas. La coppia era fuggita dall'inferno di Boko Haram e si trovava in Italia da 8 mesi. Marito e moglie stavano passeggiando nel centro della cittadina quando si sono imbattuti in due giovani conosciuti come ultras della locale squadra di calcio, la Fermana. Uno dei due si sarebbe rivolto alla donna chiamandola scimmia africana, iniziando a strattonarla tanto da suscitare la reazione del suo compagno, che sarebbe stato colpito più volte con una spranga anche quando già si trovava a terra. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La comunità di Capodarco, che ospitava il giovane con il suo presidente Don Vinicio Albanesi, che ha ricevuto una telefonata di solidarietà dal premier Renzi, si costituirà parte civile nel processo per conto della comunità, che ospita 124 profughi. Oggi il ministro dell'Interno Alfano si recherà a Fermo per presiedere un comitato per... Oramai chi è attento alle notizie del giorno sarà nota qual è la storia paradossale di questo ragazzo, Emmanuel C.D. Namdi, di cui molti giornali nemmeno mettono il nome, mettono la foto, giovane nigeriano 36enne, come se non avesse nemmeno diritto alla dignità di avere un nome, anche se difficile da pronunciare. Una storia paradossale perché un uomo che aveva visto veramente delle vicende particolarmente difficili, detto in termini edulcorato. Voi immaginate, nella sua città d'origine, i terroristi di Boko Haram, che sarebbe l'ISIS locale, hanno incendiato una chiesa dove c'erano i genitori, quindi parte della famiglia è rimasta bruciata viva dentro una chiesa. Lui e la moglie sono cominciati a fuggire, hanno fatto parte di quell'esodo di cui noi vediamo le propaggini ultime quando guardiamo i centri di accoglienza di migranti, e poi possiamo dire e pensare quello che vogliamo. Attraversato il deserto del Niger, la Libia, anche lì ha avuto altri assalti da parte dei predoni, altre botte, altre violenze, la moglie pure abortito in quel frangente. Poi il passaggio, il barcone, il passaggio del mare, l'arrivo in Italia. Finalmente sembrava che la sua situazione si stesse stabilizzando. Si trovava ospite di una città esemplare, ospite di persone esemplari. Don Vinicio Albanesi, l'abbiamo chiamato molte volte qui a parlare dei suoi libri, conosco Capodarco, sono stato spesso ospite, ci vado almeno una volta l'anno a fare un seminario per giornalisti sociali, faccio parte dei loro premi per il cinema, televisione, radio, documentari a fondo sociale. Come sono persone che conosco bene, è un centro accogliente, è un fiore all'occhio, qualcosa che in tempi non sospetti già si occupava di quello che oggi è sulla bocca di tutti, cioè del problema dell'emergenza sociale. E qui, paradossalmente, quando si può sentire finalmente integrato, finalmente insieme a delle persone che lo accolgono, va a passeggio con la moglie, perché nel frattempo si era sposato, Don Vinicio li aveva sposati, mi sembra di aver ricostruito anche questo particolare, poi lui sarà presente e mi dirà se è vero o no, se esattamente corrisponde a realtà. E viene assalito da due teppisti locali che nulla hanno a che fare con la realtà delle Marche, che è una realtà laboriosa, una realtà esemplare in Italia. Se sentiamo fare degli esempi, nelle Marche hanno cominciato a rimboccarsi le maniche, in ogni garage hanno aperto una manifatturiera di scarpe, quindi hanno raggiunto un benessere a loro fatica, con la loro coesione, con il loro senso del lavoro. Ecco, proprio in questa società accade l'episodio che fa riflettere tutta Italia. Siamo abituati a un facile luogo comune in cui è lo straniero invasore, cattivo, incivile, barbaro, a compiere degli atti di violenza e di spavalderia nei confronti delle nostre donne, perché il primo luogo, il primo terreno di scontro quando ci sono, diciamo, delle culture che si contrappongono è le donne. Le donne è il terreno di scontro. Beh, invece accade esattamente il contrario. E lui lascia la vita in un episodio di estrema violenza. Ecco, su questo vorrei riflettere. Senza naturalmente accettare letture superficiali, no, voglio entrare nel profondo. Cosa sta accadendo nel nostro paese? Dobbiamo riflettere su questo. E ci siamo veramente anche noi incattiviti a livello tale da essere pronti a fare qualunque cosa? È facile, leggendo sui giornali dei nostri connazionali tagliati a pezzi, tagliuzzati, torturati da i terroristi di Dhaka, viene a pensare: allora sì, è guerra aperta, tutti contro tutti. Ma siamo sicuri questa è la via della civiltà, è la via giusta? 800 24 0024, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando dell'episodio di cronaca. Questa mattina ci sembra il più importante per saggiare quello che è il termometro nel nostro paese rispetto al problema indubbiamente enorme dell'immigrazione. Mi scrive il primo ascoltatore via SMS: Nicoletti, non possiamo salvare tutta l'Africa, si è rotto l'incantesimo, sono troppi. Può anche essere giusto e condivisibile, però in questo caso parliamo di una persona che rappresentava il top dell'integrazione. Guardate le foto sui giornali: un signore in giacca e cravatta, elegante, la moglie bellissima, nulla hanno a che fare con lo stereotipo, diciamo, dell'immigrante sporco, cattivo, brutto, arrogante. Quello su cui voglio riflettere questa mattina: io non sono un buonista, non sono una persona che ideologicamente comunque abbraccia idee, io rifletto, guardo intorno e rifletto. Capisco, in questo momento esiste in noi una forte spinta alla reattività che ci sta facendo tracimare dalla semplice reattività di tipo verbale, nelle espressioni verbali, a qualcosa che rientra più nello scontro fisico. Vi faccio un esempio velocissimo, quindi mi prendo anch'io dentro nel novero delle persone in questo momento devono riflettere, capire se essere civili significa assecondare questa spinta che abbiamo dentro o resistere o immaginare che ci sono delle soluzioni di tipo diverso. Io giravo da circa 45 minuti questa mattina con mio figlio Tommy in macchina, cominciava a diventare irrequieto perché è autistico e se non trova parcheggio naturalmente comincia a agitarsi, cercando parcheggio qua intorno con la macchina. Ho visto nei miei giri ricorrenti, ma sempre lo stesso tourbillon, un signore che era in piedi, che teneva occupato un parcheggio libero. Un signore ben vestito, penso di origine egiziana, immagino, ma era molto vestito, decente, un bellissimo cellulare, telefonava. Passo una volta, due volte, tre volte, dopo 20 minuti che giro lo vedo sempre di fermo, mi accorgo, dico: scusi signore, gentilmente, potrei parcheggiare? Cioè, no, questo parcheggio mi serve, che devo parcheggiare, devo scaricare. Dico: scusi, ma sono 20 minuti, signore che sta qui davanti, questo è un parcheggio pubblico, capisca, uno può tollerare una volta, ma 20 minuti, mi venga addosso con la macchina. No, ma non ne voglio né addosso con la macchina. Lo falle ragionare che siamo un paese in cui un parcheggio pubblico, lei può casualmente fermarsi un attimo se uno deve parcheggiare che sta lì accanto, ma sono 20 minuti nel posto, non può. Dice: vada, e a quel punto sono partito con l'insulto e abbiamo cominciato a scambiarci insulti. L'escalation era per me istantanea. L'istinto di scendere, prendere il blocco a sterzo e massacrarlo mi è passato per la mente, lo dico, perché dico: non è possibile, c'ho Tommy che scalpita, come mai questo viene qui chissà da dove, tranquillo, ben vestito, integrato, quindi ha tutto il vantaggio di stare da noi, mi deve fare questo atto di pura prepotenza. Poi mi ha fatto riflettere in Tonti, che è un filosofo, mi ha detto: guarda Gianluca, poteva essere un egiziano, poteva essere anche un romano, capita tutti i giorni che la gente si prenda a cacciavitate per episodi del genere. E quindi ho capito in me che in realtà anch'io sono condizionato da quello che leggo, quello che vedo, quello che intendo. Anche io sto cominciando a seguire una deriva. E se succede a me, persona normalmente, banalmente tranquilla, potrebbe succedere a tutti. E su questo voglio riflettere. 800 24 0024. Luca, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Allora, le dico, io innanzitutto solo due parole. Io ho fatto l'università di biologia, sono laureato in biologia e ai tempi ho studiato l'antropologia, che ho mantenuto come passione, cioè non faccio l'antropologo. Quello che volevo dire è che le migrazioni sono una cosa che esistono da che esiste l'uomo, cioè da circa un milione di anni, e sono inevitabili. Questi fenomeni purtroppo sono sempre successi perché chi riceve i migranti non li tollera e quegli altri non si integrano, almeno non nell'immediato. Per cui purtroppo dovremo abituarci ai prossimi anni ad avere episodi disgustosi di questo genere. Addirittura questo non era uno così diverso, perché era un cristiano, figuriamoci, e i due ignoranti animali che lo hanno aggredito non lo sapevano, lo vedevano nero, quindi pensavano che fosse, che ne so, un terrorista o un islamico. Ma in realtà dall'apparenza poteva essere un professore universitario, poteva essere... Esatto, ma i due, cioè purtroppo questi fenomeni, sia da una parte che dall'altra, dottore, saranno... completamente inevitabili nei prossimi almeno 50 anni, perché le migrazioni sono inevitabili. Io ricordo di aver letto che l'imperatore Caracalla, non so quante migliaia di anni fa, aveva avuto un grosso scontro al Senato proprio su un argomento di questo genere, ma addirittura le migrazioni andiamo anche prima, cioè andiamo a un milione d'anni fa, che sono sempre arrivate e hanno sempre creato queste cose, cioè chi era lì, lo stanziale, non voleva chi arrivava, e addirittura delle guerre, e chi invece arrivava voleva una vita nuova, per cui dovremmo prepararci, secondo me, all'inevitabilità di questi fenomeni brutti e sì, però umani. Siccome lei ha studiato antropologia, poi pare che abbia scelto altri indirizzi, quello che volevo riflettere, siccome sono passati degli anni dai tempi dell'imperatore Caracalla ai tempi che stiamo vivendo, il senso del nostro essersi civilizzati, quindi ragionare con un sistema più elaborato rispetto al brutale ti vedo nero, giallo, verde, blu, io sono bianco, io sono nero e tu sei bianco e via dicendo, quindi comunque ti anniento, che mi sento colpito, attentato. Quale può essere, diciamo, il frutto della nostra civilizzazione di fronte a questo? Qual è il tipo di fronte? Perché non voglio nemmeno dire la risposta sia puramente ideologica. Le risposte ideologiche non sono sincere. Le risposte non sincere non sono quelle che risolvono comunque i problemi. Su questo vorrei ancora riflettere. Carmine, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Senta, io l'ho detto già alla signora che mi ha risposto al telefono. Io penso che ci siano soltanto tre parole da dire in questo proposito. Banalità del male. Perché noi purtroppo, noi italiani, siamo xenofobi, ce l'abbiamo nel DNA, come ha detto l'ascoltatore che mi ha preceduto, già dai tempi degli antichi romani. Se noi non fossimo stato un popolo di xenofobi, ma da millenni, non avremmo mai permesso che un movimento come il ventennio fascista ci avrebbe governato per vent'anni. Beh, non però non nasce, scusi, non siamo mai alleati. Aspetti. Con Hitler. Sì, ho capito, perché, Carmine, fermo un attimo, sì. È per discutere, non perché la voglio interrompere, ha diritto di parlare. Xenofobi probabilmente l'essere umano lo è, l'istinto è quello che ci porta comunque a alzare comunque un fronte rispetto a ciò che non conosciamo, quindi non dobbiamo spaventarci di questa radice che abbiamo dentro, ma dobbiamo capire culturalmente come va elaborata. Gli esperti di evoluzione della specie dice che le specie che maggiormente sopravvivono non sono quelle più forti, ma sono quelle più capaci a rimettersi in discussione e adattarsi. Quindi in questo momento, di fronte a un flusso immigratorio che, come ci ha spiegato il nostro amico, ahimè, è inutile porre dei fronti, potremmo alzare dei muraglioni in cemento armato, ma sono talmente tanti che scalerebbero il muraglione in cemento armato comunque. Ecco, quale può essere una risposta civilizzata che non sia la risposta buonista, che bello, accogliamo? No, non è nessuna risposta buonista, dottor Nicoletti. Sì, sì. Ma noi sappiamo, e ce lo insegna la storia, che le più grandi civiltà del mondo sono tutte nate dal meticciato, a partire dagli Ixos con gli Egizi, a partire con i Greci, con i Tori. Cioè non c'è stata una grande civiltà nel mondo che non sia nata dal meticciato, che non sia nata dall'unione di razze, di culture, di modi di pensare, di modi di vivere anche diversi. Non c'è stata una grande civiltà del mondo che non sia frutto del meticciato. E gli animali, mi consento di usare questo termine, che hanno aggredito quell'uomo, affermo che l'hanno ucciso, non si rendono conto che l'Africa è stata la patria dell'umanità. Cioè, noi siamo tutti africani. La sua risposta basata su strumenti culturali, quindi una risposta culturalmente avanzata, e quindi una risposta a persona civilizzata. Ora, perché questa sua lettura, che nella sua stretta banalità è l'unica lettura giusta che si può fare in questo momento, signore, inutile, seduti stravaccati al baretto del paese, forti e tronfi della propria forza fisica, della propria strafottenza, dell'essere uniti e cementati dalla passione sportiva per per una squadra, che poi non sarà solo quello, sono persone comunque identificabili, mi sembra, con una ben precisa fazione, non dico politica ma estremista, capito? Quindi sono persone che considerano comunque che vada difesa la stirpe bianca, la razza bianca, la stirpe ariana, che poi la stirpe ariana si produca nel Fermano, nemmeno i teorici della purezza del sangue nazista l'avrebbero detto, però esattamente probabilmente è così. Ecco, ripeto, senza voler per forza fare la figura di quelli belli, bravi, che fanno gli aperti e tolleranti, perché dall'alto della loro terrazza non verrà mai la puzza di un emigrante che non si lava, quindi fanno presto a dirlo, e senza arrivare a dire che hanno fatto bene, perché sono troppi, hanno rotto le scatole a picchiare questo e ammazzare questo ragazzo, esiste una via civile di risposta a quello che accade. Massimo, buongiorno. Buongiorno, semplicemente volevo dire questo, che viviamo in una società che ci porta all'estremo in ogni condizione, corriamo dalla mattina alla sera e probabilmente manca in noi quel senso di collettività che forse una volta c'era nei piccoli paesi, nelle città che non si erano ancora così ingrandite, e tendiamo a crearci il mondo in cui tutte le leggi le facciamo noi, i pensieri sono i nostri e il resto non conta, ma questo perché probabilmente a livello sociale manca proprio, mettiamola così, una parola un po' grossa, una giustizia sociale, una giustizia che può essere semplicemente il processo che non dura 20 anni o una comprensione dell'altro che viene totalmente meno. Oh, lei ha detto una cosa interessante. Il principio che passa dice: ormai tanto non esiste più un'istituzione che tenga fronte o che gestisca questo problema, quindi torniamo al punto, alla lezione medievale, ognuno si faccia giustizia per conto suo. Esatto. Qualcosa che nel parcheggio mi è già successo anche a me, diceva prima che lei cercava parcheggio. Poi io fra l'altro facevo con un contrassegno con l'handicap, una persona disabile in macchina, ma assolutamente, che non ho impugnato come però mi sembrava singolare questo signore. Non è che mi ha detto gentilmente: guardi, ho un grosso problema, mi scusi, deve venire un camion per scaricarmi, permetta, lo so, mi rendo conto. No, con una strafottenza, vada, mi venga addosso con la macchina. Esatto, io sono abituato, faccio un lavoro che mi porta a contatto con tantissima gente e con i svariati casi, e spessissimo mi capita sia di nervosirmi che cercare di dover calmare, e la cosa che noto immediatamente è che la prima cosa che chiedono inconsciamente è proprio la comprensione, cosa che probabilmente nessuno riesce in questo momento a dare. Quindi perché esiste sociali, una maniera civile per discutere di qualunque cosa. Da un episodio stupido, banalissimo come quello, poteva venire un'escalation, avreste letto domani sui giornali, noto giornalista a colpi di blocca sterzo massacra un signore egiziano, capito? Avreste letto questo se non avessi fatto un grosso sforzo di civiltà. 800240024. Don Vinicio Albanesi, che doveva essere il nostro ospite in questo momento, è a colloquio col ministro Alfano, che sta fermo, quindi avremo tra qualche istante, quando ha finito il colloquio, dalla sua viva voce subito gli aggiornamenti di quello che è il punto di vista istituzionale rispetto a questo problema che noi modestamente stiamo cercando di affrontare con semi di civiltà assieme al nostro pubblico. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024, parliamo dell'episodio accaduto a Fermo, di un ragazzo ammazzato per un episodio di intolleranza, e leggo qualche reazione dei nostri ascoltatori, perché sono reazioni tipiche di quello che si può dire, provare, immaginare, senza avere la voglia e la capacità di elaborare poi il problema per andare alla radice. Non sto facendo il demagogo, non ho nessuna ideologia da difendere, sto semplicemente cercando di capire come mai sta avvenendo un'escalation, o come mai lo sappiamo, quali sono gli strumenti culturali che noi abbiamo per fermare questa escalation che prende tutti noi. Ho fatto coming out questa mattina, ho stato tentato di prendere a criccate un signore perché aveva fatto un atto di prepotenza e di violenza, però mi sono domandato perché sono diventato così reattivo e prima non lo ero. Leggo Leggo qualche ascoltatore, dice Nicoletti, il fatto che nei secoli siamo progrediti, la civiltà è ancora cosa da venire, cambia l'estetica e non la sostanza. Può essere, noi siamo civilizzati soltanto in superficie a parole, ma la nostra profonda radice animale è rimasta immutata, non la gestiamo. Basta parzialità, sempre con le solite troppe producono i soldi di distribuzione e porta a distruzione d'Europa, quello che rapidamente, non so, questo è un delirio puro sull'Europa. Un altro mi dice i neri sono troppi e rovinano l'estetica del lungolago maggiore qui a Roma, un altro delirio naturalmente, una persona che ancora vive in un mondo che non è più quello che stiamo vivendo noi. Un altro ascoltatore che mi dice basta con la demagogia, basta con un'invasione, finché non sarà regolata ci ribelleremo e ci saranno sempre conseguenze negative. Questo sta avvenendo, sì, la gente sta ribellando e la gente non è più in grado di gestire un problema di cui non vede l'inizio e non vede la fine. Vinicio Albanesi, buongiorno. Buongiorno a te. Ti sei liberato dal ministro Alfano? Sì, sì. Che voleva? E niente, ha portato solidarietà, ha parlato dei problemi. E la solidarietà cos'è? Un contenitore? Dove si porta la solidarietà? Ha parlato dei problemi europei e soprattutto di quanti saranno respinti e che nessuno sa dove che fine faranno. Ma questo dovrebbe darti conforto, sapere che molti saranno respinti, quindi ne arrivano meno anche a fermo. No, è già avvenuto, quindi il rischio che girino per l'Italia senza dartene parte. Sì, però noi stiamo parlando di una persona, tu la conoscevi bene questa persona, penso che conosci bene l'amore, sì. Ecco, che sì. Mi sembra che poteva essere portato nei talk show televisivi come esempio di immigrato integrato, o sbaglio? Sì. Perché erano affezionati, erano rispettosi, cercavano lavoro, lui in 8 mesi aveva imparato l'italiano, quindi erano esattamente una coppia capace di vivere con noi e in mezzo a noi. Ne avevano passate tante, te l'hanno raccontato, i genitori bruciati nel deserto, lei abortito, le botte, cioè un iter da manuale proprio, non esiste un esempio, probabilmente sono andati a cogliere l'esempio tipico che dovremmo portare quando la gente dice basta, questi barconi arrivano, non fanno niente, sfaccendati, vogliono soltanto, questo uno che ha fatto tutto l'iter, ha avuto a che fare con il terrorismo estremo islamico, è stato massacrato nella famiglia, negli affetti, nella vita, ha passato il deserto, ha passato il barcone, è arrivato in Italia e finalmente aveva trovato la terra promessa, per lui era la terra promessa. Sì. Come ti spieghi invece quello che è accaduto? È accaduto che se non si chiude il cerchio di questa accoglienza, cioè noi salviamo le persone in mare, le integriamo in un primo momento nei centri di accoglienza, poi il meccanismo si inceppa perché c'è il respingimento e questa legge, che in parte è stupida, dice entro 3 giorni devi lasciare il paese. Allora queste persone che non hanno né soldi né documenti, in quali paesi ritornano, con che cosa? Quindi, ma gli hai detto problema, Alfano, questo? Gliel'ho detto esplicitamente. E che faccia faceva? Lui ha detto è un problema europeo, lo sto ponendo in tutti i tavoli, ma sembra che l'Europa sia sorda. Sei d'accordo, Vinicio, però che ormai il livello di guardia è alzato? È un po' difficile fare appello soltanto alla civiltà, alla civilizzazione. Poi le persone con meno strumenti culturali e più carica animalesca, come i signori che forse tu conosci, che hanno aggredito questo ragazzo, l'hanno ammazzato, è difficile fare a loro un discorso sulla civiltà, sulla civilizzazione. Non solo, ma la popolazione nostra, che non è abituata all'immigrazione, che è vissuta 100-200 anni e lo straniero era quello del paese vicino che sposava magari la ragazza che aveva conosciuto, in realtà ha un impatto che non riesce a reggere, perché poi trovi i ragazzi neri che chiedono l'elemosina, quelli che ti chiedono il parcheggio, quelli che vanno per le spiagge, cioè è un fenomeno che sta sfuggendo di mano e che non è gestito. Mi hanno mandato adesso un sms con una scritta apparsa in un muro di fermo: immigrati, per favore non lasciateci soli con gli italiani. L'avevi vista? No, non l'avevo vista. L'hanno fatta fermo qualcuno. Sì, però vediamo di capire meglio, che adesso gettare l'onta su fermo mi sembra esagerato. Sì, esagerato. Chi ha compiuto questo gesto ha poco a che fare, diciamo, con la media della sensibilità del posto in cui si è prodotto. No, la media è una popolazione tollerante e accogliente, però è stata abituata alle cose precise, cioè ciascuno la propria casa, il proprio lavoro, i rapporti amichevoli, cioè una popolazione molto regolare. Nel momento in cui ci stanno i furti, ci stanno gli strappi, bancomat, questo non lo sopporta. E quindi cresce, non è il razzismo, è cresce un disagio che evidentemente ha le sue radici in un fenomeno che nessuno riesce a gestire, perché non si riescono a fermare i flussi, non si riescono a integrare nel popolo. La crisi economica c'è, le culture sono diverse, perché noi abbiamo subito le prime immigrazioni con gli albanesi, con le popolazioni dell'est, e non è avvenuto nulla. È un impatto da cui è un impatto forte, da cui poi nasce questi gruppetti che si fanno portavoce in modo nemmeno ideologico, ma proprio di pura arroganza, per cui questi due signori che hanno fatto del male. Ma perché se non te la sono presa proprio con il più pacifico e il meno apparentemente nocivo rispetto alla loro idea di attentato alla civiltà, alla tranquillità e via dicendo? Perché proprio lui? E non uno che magari andava in giro a fare gli scippi, i furti? O... Ma perché sono anche, scusa la parola, vigliacchi, no? Se la prendono non con un gruppo di nigeriani da cui potrebbero ricevere altre botte, ma se la prende con... colui che non ti difende, perché Emanuele stava con moglie, quindi tu aggredisci verbalmente una coppietta tranquilla, serena, che andava a comprare. Forse dava proprio fastidio al fatto che fossero integrati, che erano come loro, che non potevano nemmeno dire sei sporco, sei un ladro, sei un islamico, non potevano dirgli nulla. Era gente sposata in chiesa, quindi figurati. Sono dei bulli, bullismo. Senti, ma non è il primo episodio, però, diciamo, che di attenzione violenta nei confronti dell'istituzione chiesa, o sbaglio? Sì, non è la prima. Perché? Perché non sopportano l'equilibrio che sta cambiando. Ma cos'era successo? Altri attentati? Ci sono stati altri episodi, però, mi sembra. Sì, c'erano stati cinque bombe messe davanti alla chiesa. Beh, non mi sembra una cosa trascurabile, però, Vinicio. Però poi la provincia tende sempre, siccome è melmosa, tende sempre a dire ma no, sono ragazzate, non vi preoccupate. Beh, scusami, Vinicio, cinque bombe nei confronti delle chiese, in che zona? Proprio nel Fermano? Sì, sì, tutti nella città di Fermo. Bombe grosse, medie, piccole, come? Li mettevano in modo da non far danno alle persone, però i danni materiali l'hanno fatto. Però rifletti un attimo, che adesso devo un attimo dare un secondo la linea, poi vorrei parlare con te. Ma come mai se la prendo proprio con la Chiesa in questo momento? Non mi sembra una cosa casuale. È l'unica forza che... Io non amo i preti, lo sai, però mi sembra, in questo momento mi fa pensare questa cosa. Perché è l'unica realtà che opera poi in questa integrazione, non è che fa solo le parole come la politica o come... E poi è rimasta l'unica struttura che sta sul territorio, perché un parroco tu lo trovi, se cerchi un servizio rischi di è l'ultimo trovare... presidio. Fermo un attimo, Vinicius, fermiamo solo un istante, non te ne andare, se c'è Alfano dica aspetti un attimo, un secondo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti, vi presenta Melog, Cronache Meridiane. .800 24 0024, leggo qualche tweet che commenta l'episodio dell'omicidio avvenuto a Fermo di un giovane immigrato nigeriano che viveva con la sua moglie tranquillamente, completamente accolto e inserito. Mi viene data la notizia, leggo su Twitter, Vinicio, non che sia fondamentale a definire la reazione, però è un'integrazione importante, che la moglie avrebbe stabilito di dare gli organi del marito, è vero? Ti risulta? No, c'era stata una prima disponibilità, poi hanno cominciato a telefonare in giro per il mondo, e evidentemente la cultura africana non permetteva, lei già aveva tentata di farlo ma non, gli hanno detto che non si può fare, non si può fare, quindi si è tirata indietro così. Vabbè, però abbiamo rispettato la buona intenzione, l'aveva messa, l'aveva messa, sì. Cioè già era un desiderio di dare un segnale di accettare, sì. Però è logico, ma questo vuole pieno rispetto su questa cosa qua. Non danno gli organi per un problema di tipo religioso, va benissimo, ma io lo stesso non gli darei gli organi probabilmente a una persona cara in questo momento, se non lo chiedi a freddo, non è che può essere considerato come un obbligo. Altra persona dice: l'assassino di Fermo va chiamato fascista, non ultra, se no non possiamo fare speculazione politica. E sei d'accordo su questa... Ma no, sono i cani sciolti che vanno in cerca disperata di un cappello, dandosi l'aria di persone che pensano, ma non pensano. Sono poveri figli, sono poveri disgraziati pure loro. Si sono rovinati la vita per fare che... Secondo te però, adesso ritorniamo al discorso generale, quindi non individui una strategia generale, però il fatto ci sono state delle bombe sulle chiese, che venga comunque aggredito, probabilmente non finalizzato a ucciderlo, ma comunque per dare un segnale violento forte, una persona che era integrato, che si muoveva diciamo nel circolo di protezione della chiesa in qualche maniera, ci vedi una sorta di tentativo demagogico di trovare comunque dei fiancheggiatori e del disordine, quindi è un attacco diretto o è una mia lettura esagerata? No, è di tipo culturale, però non è di tipo politico, perché anche la destra nelle nostre zone è ridotta male, e invece l'ideologia che in qualche modo fa da tramite e da riferimento, perché hanno bisogno di un concetto di purità, di razza, di tradizioni, di forme... Cioè, ma qual è la tradizione? Scusa, il mattone fermano, cioè qual è diciamo il confine culturale minacciato comunque? Il no, lavoro mi sa... Però ci sono persone che vivono livelli così di pensiero molto, molto basso, che misurano la loro capacità dai muscoli, dalle svastiche che c'hanno in corpo, dalle forme di capello. Senti, ti occuperai adesso della signora Vinicio, sì, perché mi sembra sì. E cosa pensi che ci sarà per futuro? Io ho promesso, lei faceva il secondo anno di medicina. Quindi era una studentessa universitaria lei? Sì. Studiava per sì. fare il medico? Io ho promesso che farò di tutto per fargli fare il medico. Quindi se è possibile darti una mano, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, sì, chiamate noi, questa ragazza vuole fare il medico, Vinicio lo aiuterà, ma anche da Radio 24 se qualcuno volesse dare un segnale, sarebbe un bel segnale portarla fino alla laurea, perlomeno dargli gli strumenti per poter studiare. Sì, perché tra l'altro non ha nulla, non ha parenti, non ha amici, non ha il suo Emanuele. La prenderai a Capodarco con te? Sì. Capodarco la conosco, una realtà che ormai da decenni accoglie e prende di tutto, ha preso anche me in qualche momento. Sentiamo Laila. Laila, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Felice di intervenire nella tua trasmissione. Volevo fare semplicemente una riflessione, detto che Don Vinicio secondo me ha utilizzato la parola giusta, che è cani sciolti. Cioè, secondo me ormai siamo veramente arrivati ad una tale deriva dove lo Stato sociale anzitutto ha mollato le ancore, perché non solo non esistono più regole o quelle poche che ci sono non vengono rispettate, ma il problema della cultura è tutto lì, o dell'ignoranza dall'altra parte è tutto lì. Cioè, io sento proprio che al di là di quello che può fare la famiglia, se e quando lo fa oramai, al di là di quello che può fare la Chiesa, anch'io sono abbastanza diciamo fredda nei confronti della Chiesa, sì. Però mi rendo conto arriva al punto. Il punto è che secondo me manca la scuola, Gianluca, cioè, sì, va bene, ok, sì, scusa, mi dispiace concludere con una banalità, manca la scuola. Ci sono molti passi avanti possiamo fare senza pensare alla scuola. La cosa mi sembra più concreta, come ha detto Don Vinicio, se qualcuno vuole aiutare la giovane vedova di Emanuele a diventare medico come voleva, sapete che noi siamo qua e potremmo dare una mano anche noi per quanto possiamo. Alla prossima.